e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buongiorno a voi, eccoci tornate tra un colpo di tosse e l'altro. Sì. Siamo pronti per una nuova puntata. Pronte. Deborah? Ho appena bevuto qualcosa di caldo, spero di tenere sotto controllo la tosse. Nel caso, anche oggi, vienimi in soccorso se mi vedi strozzata in diretta. Sono qua apposta, ecco. Ma spero che tu beva qualcosa. Eccolo lì. Eccolo lì, una sì. Bella. Non è un concentrato di paracetamolo che anche un cavallo si risolleverebbe con una dose del genere praticamente. È un po' zuccherato però, è un po' dolce, attenzione. Un po' di mielino anche dentro questo composto. Non posso dire un nome molto noto, non posso dire che cos'è. Perché lo sai che le bevande zuccherate tra un po' potrebbero costarci care. Dal punto di vista del cuore ne abbiamo parlato tante volte, sì. Ma anche dei denari. Come in Portogallo. Sai cosa ha fatto il governo di Lisbona? Hai letto la notizia? Certo. Ha preso questa decisione proprio alla cuore denari, perché ormai ci copiano anche all'estero. Per tentare di sistemare i conti pubblici, in particolare rispettare l'impegno di alzare le pensioni minime, cosa ha fatto? Il governo di Lisbona ha introdotto una tassa su zucchero e bollicine. Il nuovo balzello ammonta a 16 centesimi al litro per le bevande gassate. E gli 80 milioni di gettito previsti, non 2 euro, 80 milioni, saranno usati per aggiungere 10 euro al mese agli assegni previdenziali più bassi. Mica male. Eccoci. Allora, chiediamo anche l'opinione dei nostri ascoltatori. Dovendo scegliere su cosa vorreste introdurre una nuova tassa, non ce ne sarebbe bisogno, ma guarda, sicuramente... Io lo sai che massacrerei il fumo senza ritegno. Ci stanno già pensando anche il l'IOM, ne abbiamo parlato, vero. Ma torneremo a farlo. Intanto scriveteci, chiamateci 800 24 00 24. Fateci sentire la vostra opinione. Allora, una rassegna stampa mixata questa mattina. Prendo subito io la parola solo per raccontarvi velocemente cosa accade in borsa quest'oggi. Una giornata veramente ricca di notizie. Tanto per cambiare, Nicoletta, un tema nuovo. Abbiamo sotto i riflettori il settore bancario a Piazza Affari. Milano sta andando bene, c'è Monte dei Paschi che prende il volo. Ieri è stato presentato il cosiddetto piano di rilancio per il gruppo da parte dell'ex manager Corrado Passera. Il gruppo Monte dei Paschi, lo ha detto Marco Morelli, l'attuale amministratore delegato, va avanti con il suo piano presentato a luglio su ricapitalizzazione e sofferenze, però guarda con interesse anche all'alternativa presentata da Corrado Passera. Il titolo è in rialzo di oltre 8 punti percentuali. Complessivamente Milano guadagna lo 0,11, le altre borse sono leggermente negative. Oggi arrivano una marea di dati dagli Stati Uniti, tantissime trimestrali, c'è quella del colosso del petrolio Halliburton, c'è quella del colosso finanziario Morgan Stanley, ma anche di American Express. Ci sono molti dati macroeconomici che riguardano in particolar modo l'andamento del mercato immobiliare. C'è la presentazione del Beige Book, che è il rapporto periodico della Federal Reserve. Qua oggi un'agenda ricchissima, oltre a tutto quello che fa Matteo Renzi insieme a Barack Obama, che abbiamo letto di tutto e di più. Di tutto e di più, ci è piaciuto anche tanto, insomma, questa visita. Un dato molto importante è arrivato stamattina dalla Cina, riguarda il prodotto interno lordo. Nel terzo trimestre l'economia cinese è cresciuta del 6,7%, un dato all'insegna della stabilità che è piaciuto a quanto pare al mercato. Domani è la grande giornata della Banca Centrale Europea, direi che questi sono i temi finanziari per ora più importanti. E continuiamo dando spazio a una bella storia. Bene. Proprio bella, che sì. Ha protagonisti un nonno e suo nipotino. È una storia a lieto fine che parla di cuore e di denari. Di denari, perché di denari ne parleremo tra poco, ma lasciami dire perché parla di cuore. Sì. Parla di un bambino malato a cui era stato diagnosticato un tumore al cervello e per il quale sembrava non ci fosse nulla da fare. Il verdetto di un ospedale a cui la famiglia si era rivolta sembrava proprio non lasciare alcuna speranza, ma il bambino è stato preso in cura da un'equipe di un altro ospedale, adesso sta bene e conduce una vita proprio come tutti i suoi coetanei. Anticipavamo, è anche una storia di denari. Il nonno, infatti, è rimasto colpito, commosso dalla grande umanità dimostrata dai medici dell'ospedale che si erano dichiarati pronti a dare battaglia al tumore. Ancora prima, pensa Deborah, che sì. Il nipote avesse vantaggio dalle terapie, quindi quando la situazione era, ahimè, ancora incerta, decide di versare una somma di denaro finalizzata a mantenere in servizio alcuni dei medici appassionati e competenti che stavano proprio curando il suo nipotino, ma avevano purtroppo dei contratti in scadenza. Quindi un gesto che ha permesso ad altri bambini dopo suo nipote, che potessero anche beneficiare delle stesse cure. Adesso che il bambino è guarito, il nonno ha fatto un'altra donazione che ha permesso ancora una volta di finanziare qualcosa, in particolare una ricerca di valenza nazionale ed internazionale sullo studio e la cura di questo tumore che è frequente nei bambini, un tumore cerebrale, si chiama medulloblastoma. È una patologia per la quale la moderna ricerca genetica consente di pensare a importanti sviluppi con nuove terapie farmacologiche su base biologica. Allora, noi vogliamo commentare questa bella storia con il presidente dell'Istituto Gaslini, l'ospedale in cui il bambino è stato curato, e abbiamo in linea con noi il dottor Diego Pongiglione. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno a lei, Pietro Pongiglione. Pietro, gli ho cambiato nome, ecco, magari un secondo. È Marco che ci ha scritto così, le ha cambiato nome, ma insomma, il dottore, è l'importante che lei sia qua con noi per commentare questa bella storia a lieto fine, di cui non sono solo protagonisti il bambino e il suo nonno, ma c'è un terzo attore che è l'ospedale, l'equipe di medici che ha preso in cura il bambino e soprattutto lo ha fatto con competenza, professionalità e grande umanità. Dottore, partiamo da qua. Sì, certo, una storia bellissima e ci fa molto piacere che venga riportata veramente all'onore del mondo e alla conoscenza del grande pubblico, anche attraverso di voi. E tutto nasce però, consentitemi, proprio dalla fondazione dell'Istituto Gaslini, che è avvenuta 79 anni fa, quando il fondatore, appunto, Gerolamo Gaslini, ha voluto che fosse costruito un ospedale al massimo e al meglio di quello che poteva essere allora, ma non soltanto, che si mantenesse sempre al massimo e al meglio. Difatti ha voluto che nell'ospedale ci fossero delle scuole di formazione per il personale di tutti i livelli, e direi che è questo stato già da allora il motivo vincente di tanti successi che l'ospedale Gaslini ottiene, proprio perché da noi si fa formazione sia specialistica, tecnico-scientifica, ma anche proprio formazione di relazione con le persone. Quindi avete nel DNA l'eccellenza. Direi di sì, abbiamo l'eccellenza nel DNA, ci è stata tramandata e questo noi lo dobbiamo mantenere. E io sento sulle mie spalle questo onere, ma anche questa gioia di poter contribuire a mantenere una tradizione così, così elevata. Dottore, questa storia racconta anche di una famiglia che non si è arresa di fronte al verdetto non c'è nulla da fare, non ha smesso di cercare e ha trovato un'equipe che si è presa cura del bambino. Quindi il messaggio è: non bisogna arrendersi, le eccellenze ci sono nel nostro paese. Dottore. Senz'altro sì, non bisogna arrendersi mai, anche perché il successo da soli noi non l'avremmo ottenuto. Lo abbiamo ottenuto perché c'è stato una sorta di affidamento. Questa famiglia, oltre ad avere prima cercato disperatamente, io ho parlato con la mamma e con il nonno proprio molto di recente, loro hanno avuta la notizia così negativa sul bambino, hanno cominciato a cercare e rapidamente hanno trovato, perché poi il sistema di internet aiuta a volte pur nelle difficoltà e nelle confusioni che può creare, ma porta a dove ci si può trovare qualche cosa che risolva. Loro quindi hanno cercato e poi si sono affidati. Ecco. Ovviamente hanno dovuto affrontare un periodo difficile, ma collaborando proprio col personale. Infatti, nostro. Perché i medici, lo ricordiamo, hanno deciso di sottoporre il bambino a una chemioterapia molto intensiva, una cura forte con rischi di complicanze, ma che i medici hanno scelto perché aveva la possibilità di essere efficace in poco tempo. E ancora una volta la storia insegna che ci deve essere un rapporto di fiducia con il proprio medico, in questo caso con i curanti, parliamo di un'equipe. La famiglia del piccolo si è affidata e si è fidata e ha creato un'alleanza, perché anche in questo caso, dottor Pongiglione, possiamo dire fa parte del percorso di cura. Sicuramente è un elemento, direi, fondamentale, non il primo ma sicuramente il secondo, il fatto di affidarsi e anche poi soprattutto il fatto di essere disponibili ad usufruire di quelle che sono le cure personalizzate, che sono un'altra caratteristica del nostro istituto, quello di personalizzare al massimo possibile la cura su ogni singolo caso. Certo. Ed è questo che è stato l'elemento di successo. Allora, noi ci fermiamo un attimo, il dottor Pongiglione resta con noi per commentare ancora questa storia, andiamo alle informazioni sul traffico, ritorniamo subito dopo insieme, aspettiamo i vostri commenti che stanno arrivando anche via WhatsApp al 349-238-6666, anche all'800-24-0024, fateci sentire la vostra voce. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta... Cuore e denari. Allora, Alfredo Aureli è uno dei vertici di una grande società leader nella produzione di macchine per la lavorazione del legno, ma soprattutto è un grande nonno, un nonno che ha donato quasi €1 milioni all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove il nipotino Davide è stato salvato da un tumore al cervello. Questa notizia è stata ampiamente commentata, appunto è raccontata dalla stampa. E uno dei motivi per cui questo nonno ha accettato di rendere pubblica questa notizia, il fatto di aver fatto questa donazione, pur chiarendo, e lo possiamo ben comprendere, di non avere alcuna ambizione di popolarità o di essere celebrato come un eroe, la speranza che questo gesto possa diventare contagioso e stimolare anche altre donazioni analoghe. La stiamo commentando con il presidente della Gaslini, il dottor Pongiglione. Pietro Pongiglione, dottore, non Diego. E dottore, la storia dimostra ancora una volta che se la salute non ha prezzo, la sanità costa. I soldi del nonno hanno permesso di sostenere un'equipe di specialisti, alcuni di loro senza la donazione avrebbero dovuto cercare lavoro altrove e l'ospedale avrebbe sicuramente perso una buona opportunità per curare bene. Posso fare un inciso prima di sentire il professor Pongiglio? Perché qua sta passando il messaggio che questo signore ha fatto questa super donazione prima che il nipotino venisse ricoverato e preso nelle cure appunto di questo ospedale. Possiamo spiegare che non è avvenuto questo, Nicoletta? Che certo, non sono stati questi soldi? Le storie bisogna ascoltarle prima di commentarle. Il dottor Pongiglione è proprio qui per raccontarci passo a passo. Abbiate un attimo di pazienza. Betta da Bologna ci scrive: cara Nicoletta, questa notizia non dovrebbe essere la regola in sanità. È vero, dottor Pongiglione. Allora, questi soldi, la donazione del nonno sicuramente ha aiutato, ma soprattutto ha permesso che altri bambini, proprio come il suo nipotino, potessero essere curati da un'equipe di specialisti dedicati a questo tipo di tumore, che lo ricordiamo è un tumore aggressivo che si manifesta nell'infanzia e che però può essere, ci sono delle buone indicazioni per poter essere curato. Dottore, le lascio la parola. Sì, l'ospedale Gaslini dispone di tante equip che fanno ricerca su molte malattie come quella di cui stiamo parlando. Certamente i ricercatori che per natura, per tipo di mestiere, hanno un contratto normalmente legato ad un programma di ricerca, spesso e volentieri quando si arriva ad un dunque può succedere che i soldi pubblici non ci siano più per poter continuare nella ricerca stessa, e allora ci sono tante associazioni e enti che ci danno una mano, che danno una mano in generale alla ricerca, ma nel particolare il nonno Aureli ha voluto fare un qualche cosa di un po' significativo, e difatti ben prima di sapere che la sua storia sarebbe andata a buon fine ha ritenuto che fosse giusto sostenere questi ricercatori che diversamente avrebbero dovuto cercare un lavoro e un ingaggio da un'altra parte, e questo è stato nel caso suo vincente, come fortunatamente succede tante volte, e poi però ha continuato con una seconda donazione, questa successiva alla, diciamo, i primi segnali di un successo della sua storia. Io ho fatto molta fatica a convincere il signor Aureli a rivelare questa storia, a renderla pubblica, però direi che devo dire è una persona veramente squisita, meravigliosa, perché ha consentito di parlare di noi, di parlare della possibilità che la ricerca porti, come spesso porta, dei risultati positivi, e anche a mettere in risalto che forse il pubblico potrebbe essere un pochettino più disponibile a investire qualche cosa anche quando le risorse sono poche, perché poi alla fine comunque il bilancio è positivo, perché una guarigione vuole dire risparmiare in tante cure e in tante sofferenze. Dottore, ricordiamo che nell'ultima tranche della donazione il nonno ha così finanziato una ricerca, è una ricerca di valenza nazionale e internazionale sullo studio e la cura di questo tumore. Certo, quindi vuol dire che altri bambini potranno essere curati, ecco. La ricerca potrà fare dei passi avanti. Un ascoltatore ci chiede: com'è possibile che in un ospedale dicano che il tumore non era guaribile, non c'era nulla da fare, e in un altro lo possono guarire? Ci sono dei centri, delle equipe che sono più mirate nel trattamento di una determinata patologia, e in questi casi, quando il caso è particolarmente severo, è importante affidarsi a delle equipe super specializzate. Sì, direi di sì. La valenza dell'ospedale Gaslini, in particolare come ospedale pediatrico, è proprio quella di avere al suo interno tutte le specialità sanitarie del bambino, e questo chiaramente aiuta, perché qualunque problematica può essere affrontata veramente a 360 gradi. In altri ospedali, dove magari ci sono sicuramente persone molto valide, però potrebbe mancare magari proprio quella specializzazione che non consente di avere il quadro completo. Deborah, speriamo che il nonno sia imitato, che l'esempio faccia scattare una gara di... Sicuramente lo pensiamo con grande affetto, con grande ammirazione per il suo gesto, che è stato fatto ancor prima di sapere che la storia per il suo nipotino si sarebbe conclusa con un esito appunto felice. Per cui questo è l'aspetto sul quale veramente voglio soffermare l'attenzione, perché qua i messaggi passano sempre in maniera un po' curiosa fra i nostri ascoltatori, e questo mi dispiace molto. Per cui, detto questo, Nicoletta, vogliamo sapere... Salutiamo il dottor Pongiglione. Complimenti e grazie per essere stato per con noi. La vostra attività e anche quella della grazie fondazione. A voi. Saluti a tutti e grazie mille al nonno. Grazie mille esattamente al nonno Aureli. E noi abbiamo intanto un altro ospite che adesso salutiamo, gli facciamo una veloce domanda e poi lo traghettiamo nella seconda parte di Cuore e Denari. Salute e ringrazio per essere con noi questa mattina il notaio Gianluca Abate, consigliere nazionale del notariato con delega al terzo settore. Notaio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno. Buongiorno. Allora, noi abbiamo preso spunto questa straordinaria storia per ritornare su un tema che, quando abbiamo affrontato in passate puntate, ha avuto un grande interesse fra i nostri ascoltatori, quello del testamento solidale. Qui ovviamente non è una storia di testamento solidale, perché questo nonno è vivo, vegeto, sta bene, fa delle azioni bellissime, ma in realtà con lei, notaio, volevo commentare il tema di questa donazione fatta ad un ente, ad una fondazione nello specifico. Come viene disciplinato un gesto di questo tipo? Perché immagino che questo nonno Aureli non sia potuto andare alla Fondazione Gaslini con una valigetta piena di denaro, oppure non abbia potuto fare neanche un regolare bonifico, abbia dovuto documentare e tracciare questo suo gesto. Ecco, ce lo spiega dal punto di vista notarile in un minutino, poi magari ci torniamo nella seconda parte della trasmissione? Perfetto, perfetto. Allora, guardi, io in primis vi ringrazio per avermi invitato, perché in quest'ultima fase storica il notariato è in prima linea sul sociale, quindi questo è un tema che ci sta particolarmente a cuore. Per rispondere brevemente alla sua domanda, il primo passaggio necessario è proprio quello di rivolgersi ad un notaio, anche con riferimento alla storia che abbiamo appena ascoltato, perché ai sensi dell'articolo 782 del Codice Civile la donazione deve essere fatta per atto pubblico sotto pena di nullità. Quindi rivolgersi ad un notaio assume una particolare importanza, perché il notaio, quale pubblico ufficiale, quindi portatore di competenze specifiche infungibili che vengono esercitate a nome della Repubblica Italiana, può prestare quella assistenza necessaria, in primis dal punto di vista giuridico, onde consentire al donante di realizzare il suo fine, il fine che persegue, ponendo in essere un atto che sia conforme alle norme imperative. Il segnale orario vi è offerto da... Tecnologie e logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS. E in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Si Certo, si può dare di più, ovviamente, portafogli permettendo. Noi affrontiamo il tema delle donazioni benefiche prendendo a spunto questa storia straordinaria di cui abbiamo letto, di questo nonno che ha donato circa 1 milione di euro all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove il nipotino Davide è stato salvato appunto da un tumore al cervello. Ovviamente una storia che ha creato anche grande dibattito fra i nostri ascoltatori, percepita non nella sua accezione appunto completa, o non credo che ci siamo spiegate male io e Nicoletta. Il tema è che questa persona ha cominciato a fare questa donazione corposa alla fondazione ancora prima di sapere che la storia di suo nipote si sarebbe conclusa in maniera positiva. Detto questo, chiuso questo aspetto, noi abbiamo colto l'occasione per parlare anche della modalità con cui queste donazioni devono essere disciplinate. Abbiamo interpellato un notaio, il notaio Gianluca Abate, consigliere nazionale del notariato. Notariato che proprio da qualche anno a questa parte è in prima fila su questi argomenti, in prima linea, per spiegarle bene appunto a tutta la platea, non solo degli interessati ma alla collettività tutta. Il notaio Abate ha la delega per il notariato al terzo settore. Allora, notaio Abate, stavamo spiegando, in realtà abbiamo introdotto anche il tema dei testamenti solidali e dei lasciti solidali, che sono cosa diversa rispetto al gesto compiuto da nonno Aureli. E quindi parleremo adesso anche dei testamenti solidali, perché in realtà sono in crescita nel nostro paese. Detto questo, completiamo il ragionamento che stavamo facendo sulla donazione. Lei ci ha detto che per una donazione di questo tipo, di questo importo, il gesto va come dire, reso pubblico, va disciplinato da un atto pubblico davanti ad un notaio, secondo l'articolo 782 del Codice Civile. Ho riassunto molto velocemente il suo ragionamento, che abbiamo interrotto brutalmente per dar linea alla regia. Notaio, ci sente? La sento. Eccoci qua. Detto questo, adesso le lascio completare il ragionamento, ma una curiosità c'è già venuta a me, Nicoletta, perché il tema è: se io e lei, che non abbiamo 1 milione di euro, ma volessimo donare all'ospedale Gaslini una cifra molto inferiore con la stessa modalità con cui l'ha fatta nonna Aureli, non è che per 500 euro, 1000 euro, 2000 euro dobbiamo venire di fronte ad un notaio ed eseguire la stessa procedura, o sì? Allora, le spiego subito e la ringrazio per la domanda, che è assolutamente molto pertinente e ci viene rivolta quotidianamente nei nostri studi. Quando parliamo di donazioni di somme ingenti, come la storia che voi avete raccontato, ovviamente non si può prescindere assolutamente dall'atto pubblico e quindi un atto stipulato dal notaio alla presenza dei testimoni. Lei ha fatto giustamente riferimento all'articolo 782 del Codice Civile. Quando parliamo di donazioni di modico valore, in questo caso è possibile seguire un'altra strada, perché la donazione di modico valore, che ha per oggetto beni mobili e quindi una somma non ingente di denaro, è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia la consegna della somma di denaro. Ovviamente questi sono dei casi limite, perché in genere quando si parla anche di solidarietà, quindi sia di atti inter vivos, quindi donazioni, che lasciti solidali, molto spesso ecco, le cifre sono un po' più ingenti e quindi in questo caso è necessario rivolgersi al notaio, non soltanto per attenerci a quello che è il dato normativo e quindi porre in essere un comportamento che sia conforme alle norme del nostro ordinamento giuridico, ma anche perché il notaio, essendo, come dicevo, portatore di competenze specifiche in questa materia, può indirizzare il cittadino nella pianificazione patrimoniale, facendo sì che l'atto che lui pone in essere sia possa realizzare e perseguire il fine concreto, ecco, certo, della solidarietà, in tal modo senza però ledere e quindi pregiudicare i diritti dei familiari, che i componenti, certo, sono quello familiare. Però non vorrei insistere troppo su questo concetto. In ogni caso, al notaio, quando lei parla di modico importo, che è quello spartiacque superato il quale occorre andare di fronte ad un notaio e fare appunto un atto pubblico, non esiste una cifra indicata da una norma, da una legge? No, non c'è una cifra quindi proprio specifica. Ovviamente la modicità della somma che può essere impiegata per un fine benefico, diciamo, ecco, se ci atteniamo, ci limitiamo a quella cifra che lei ha riportato, sì, possiamo rientrare nel disposto dell'articolo 783, che, come le dicevo poc'anzi, in questo caso la donazione è valida anche se manca l'atto pubblico. Certo. Senta, queste donazioni hanno anche dei benefici di carattere fiscale. Non credo proprio che nonno Aureli abbia compiuto questo gesto in virtù della possibile esistenza appunto di un incentivo da parte del fisco, ma in ogni caso, notaio, esistono? Sì, allora, Sicuramente con le motivazioni che hanno mosso il nonno e con la storia che abbiamo raccontato prima, ecco, prescindevano da eventuali profili fiscali. Però bisogna dire sì che le donazioni, ecco, di immobili a favore di fondazioni, di associazioni che hanno come scopo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione o comunque altre finalità di pubblica utilità, in genere a favore delle OLUS, quindi le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, godono di un regime fiscale agevolativo, perché c'è l'esenzione dall'imposta di donazione, dall'imposta ipotecaria, dall'imposta catastale. E quindi in questo caso sicuramente c'è una strada preferenziale, anche se devo dirle, dottoressa, che si potrebbe fare di più, e quindi il notariato, io personalmente come responsabile del terzo settore, stiamo portando avanti dei tavoli di confronto perché si possa anche qui addivenire a dei risultati migliori, per addivenire ad un impianto normativo che possa essere caratterizzato da regimi fiscali agevolativi, laddove si parla di solidarietà, di lasciti sia donazioni che disposizioni testamentarie. Quindi insomma, se io come contribuente e come potenziale donatore ho delle disponibilità, metto tot nel sostegno ad un'attività, una fondazione, che lo Stato faccia altrettanto, appunto. Senta, notaio, ma lei ha avuto questa competenza da parte del notariato perché è particolarmente ferrato sulla materia per passione, o perché le capita anche nel suo studio di così bidimare e siglare molti atti di questo tipo, insomma, ha anche un'esperienza nel suo studio professionale nutrita in questo campo? Sì, sicuramente la mia esperienza è l'esperienza che connota, ecco, l'attività di tutti gli studi notarili. Io non ho una lunghissima esperienza perché sono dalla voce giovane, non la conosciamo personalmente, ma così un po' l'intuito, anche Nicoletta ce lo dicevamo a microfoni spenti, insomma, un giovane notaio. Sì, però devo dirle che concretamente, ecco, nella mia attività professionale mi capita spesso di confrontarmi con dei clienti che mi pongono dei quesiti su questa materia, che vogliono essere indirizzati, perché le dicevo, in questi ultimi anni si assiste ad una inversione di tendenza, il tema della solidarietà viene ad essere sentito in maniera più forte, più tangibile da tutti, dalla popolazione, e devo dire che il tema della solidarietà non resta più circoscritto a categorie particolarmente abbienti. È vero. A oggi frequentano i nostri studi moltissime persone, quindi con condizioni economiche assolutamente normali, che si interrogano sulla possibilità di destinare una piccola parte del proprio patrimonio anche con questa finalità. Certo. E nell'ambito della sanità c'è proprio forse particolare vivacità in questo senso, perché diceva il notaio Abate, non è necessario avere una disponibilità economica chissà di che tipo, ma forse basta qualche volta, no Nicoletta, aver avuto un'esperienza con una struttura sanitaria che ti ha assistito particolarmente bene, magari quel poco che tu hai vuoi lasciarlo lì per fare... dare modo anche ad altri di essere accuditi e accolti nello stesso modo, per una sorta di riconoscenza. Secondo un'indagine di GFK per il Comitato Testamento Solidale, composto da 16 grandi organizzazioni no profit, un'indagine che è stata pubblicata in occasione della Giornata Internazionale dei Lasciti Solidali a metà settembre, gli italiani lo scorso anno hanno donato oltre 1 miliardo di euro. E allora la vicenda di nonno Aureli, che ha fatto questa importante donazione al Gaslini di Genova, ci ha ricordato anche la possibilità, appunto, eventualmente in via testamentaria di lasciare quello che si vuole, quello che si ha, a strutture, fondazioni, enti di beneficenza, onlus. Ecco perché abbiamo deciso anche di parlarne in questo lasso di tempo che ci rimane, anche di questo argomento dei lasciti solidali in Italia, che stanno crescendo. Vi racconto di alcuni esempi che sono stati resi noti proprio in concomitanza di questa giornata, che si è celebrata esattamente il 13 settembre scorso. C'è la storia per esempio di Rosa Cocchetti Maggi, una maestra deceduta il 22 marzo scorso, aveva compiuto da poco 93 anni, aveva trascorso tutta la sua vita fra i banchi della scuola elementare di Castellone, un paese in provincia di Cremona, 32 anni di servizio, ha messo nel cassetto la matita blu e rossa con cui ha corretto per tutta una vita i compiti dei suoi alunni, ha preso poi carta e penna e ha redatto un testamento solidale che sembra aver commosso l'Italia intera. Era rimasta vedova, ha perso anche i suoi due figli. La maestra ha destinato il suo patrimonio, 600.000 euro in denaro e un immobile di circa 500.000 di euro, per sostenere 4 realtà nel suo paese in ambito sociale. C'è anche la storia di Franco Fiorini, un dirigente amministrativo di un'azienda edile, per cui vedete non bisogna essere imprenditori chissà di quale dimensioni, di quale multinazionale. Si è ammalato di poliomielite poco prima della diffusione del vaccino, per cui parliamo di insomma un problema con cui lui ha convissuto tutta la sua vita. Certo. Chi lo conosceva bene però lo descrive come una persona molto serena, nonostante il destino non fosse stato particolarmente generoso nei suoi riguardi. La sua vita di sofferenza come è stata conclusa con un gesto che qualcuno ha definito altruista, ma non solo, addirittura clamoroso. Lascio ogni mio avere, beni mobili ed immobili, alla dottoressa Elena Cattaneo, senatrice a vita, perché li destini come meglio crede, Nicoletta, alla ricerca scientifica. Non ti commuovere, no, come no, sempre però... a te capita, perché già ti vedo con la lacrimuccia... No, la lacrima, alla dell'occhio. Però sono cose che arrivano al cuore. Una persona che non aveva mai visto di persona, di cui aveva solamente letto e conosciuto. Esattamente. E apprezzato. Però, esattamente. Notaio Abate, allora cosa ci raccontano queste due storie? Beh, ecco, le storie che lei ha raccontato sono quelle che in qualche maniera hanno anche mosso il nostro modus agendi in quest'ultimo periodo. Perché come le anticipavo nel nostro primo confronto, e il notariato è in prima linea sul sociale, quindi superare le barriere anche culturali, psicologiche, legate al tema dell'ascito solidale è l'obiettivo con cui il notariato, sin dal 2013, ha offerto il proprio supporto al Comitato Testamento Solidale, che lei ha ricordato che è un network di organizzazioni no profit che ha come obiettivo quello di informare, di sensibilizzare certo. i cittadini sull'importanza di fare un testamento che contenga delle disposizioni connotate dal fine della solidarietà. Notaio, velocemente, perché fra un attimo abbiamo anche un altro graditissimo ospite a Cuore Denari. Che caratteristiche deve avere questo testamento? Può essere anche facilmente impugnato eventualmente da parenti e congiunti che non sono in accordo con le volontà di chi decide appunto di donare tutto quello che aveva in vita ad un'organizzazione al certo. di fuori della famiglia? Entra in gioco anche, ne abbiamo parlato in occasione del testamento Caprotti, la cosiddetta quota legittima anche nel caso del testamento solidale? Sì, per rispondere brevemente, dicevo, nel Grazie. Nostro ordinamento non è contemplato l'istituto della diseredazione. Che cosa significa? Che determinati componenti del nucleo familiare hanno diritto ad una quota parte del patrimonio ereditario. Quindi nella pianificazione patrimoniale occorre tener conto di questi limiti per evitare future quindi eventuali impugnazioni post mortem. E in questo è fondamentale rivolgersi al notaio, che potrà garantire che quella disposizione abbia una concreta attuazione, perché deve essere posta in essere in maniera conforme alle norme del nostro sistema. Si pagano le imposte di successione come succede in una eredità normale? Mi scusi? Si pagano le imposte di successione come avviene in un'eredità normale? Lei si riferisce alla... Allora, come le dicevo, le facevo prima riferimento... Se un ente riceve con un testamento solidale un bene immobile, per esempio, ecco, le imposte di successione si pagano in questo caso, allora, l'ente che riceve? Sì, il regime se la disposizione solidale viene posta in essere in favore di un ente, come dicevo, che persegue un fine di utilità sociale, in quel caso lì c'è l'esenzione delle imposte. Qualora invece venga posta in essere a favore di un ente che non abbia quella finalità, è possibile godere di un regime agevolativo soltanto se quel determinato bene che viene dato venga effettivamente poi destinato certo. ad un fine di pubblica utilità, ma ciò deve essere dimostrato nel termine di un quinquennio. Allora, noi torneremo sicuramente su questo argomento, anche perché poi, a prescindere dalla giornata nazionale che viene appunto celebrata ogni anno, nel corso della quale si ha anche l'occasione di divulgare delle storie straordinarie di generosità, ci torneremo anche a beneficio dei nostri ascoltatori per capirne ancora di più gli aspetti pratici e concreti di iniziative di questo tipo, ma insomma un grande lavoro di divulgazione in questo senso lo fa direttamente il Comitato Testamento Solidale, che è presieduto da Rossano Bartoli, che salutiamo, buongiorno, anche se il suo nome è molto più frequentemente associato all'attività della Lega del Filo d'Oro. Bartoli, buongiorno e grazie. Benvenuto. Buongiorno, io sono il portavoce del Comitato Testamento Solidale. Portavoce, cosa ho detto, presidente? Sì, no. Va bene. Le piace, l'ho fatta diventare presidente. Bravo, sul campo. Una nomina in portavoce. Grazie. Sarà un augurio. Prego. Allora. Bartoli, questo comitato che attività sta svolgendo in termini di divulgazione dell'importanza di gesti di questo tipo? E voi tra l'altro sottolineate molto spesso che non è un'opportunità, abbiamo avuto modo di dirlo anche nella prima parte del programma, chi ha solo grandi patrimoni, ma insomma una sensibilità diffusa in questo senso fa sì anche che piccoli importi poi diventino grandi, no? Beh sì, intanto appunto questo comitato che opera da oltre 3 anni parte con per iniziativa di 6 organizzazioni, ActionAid, AIL, AISM, Fondazione Dognocchi, Lega del Filo d'Oro e Save the Children, e poi si arricchisce in questo frattempo di altre 10 organizzazioni, quindi siamo 16 organizzazioni che ci siamo messi insieme per fare un'attività di informazione e sensibilizzazione sull'importanza di fare testamento e attraverso il testamento prevedere un lascito solidale. Come già lei ha detto, questo è un argomento che significa, diciamo, un processo culturale e che riguarda un po' tutti i cittadini. Per fare testamento, per prevedere un lascito solidale, non è necessario essere una persona particolarmente ricca con un grande patrimonio, ma lo possono fare e lo dovrebbero fare un po' quasi tutti. Basti pensare che in una indagine recentissima che abbiamo fatto, il 46% dei lasciti solidali sono rappresentati da somme o beni con un valore inferiore ai 20.000 euro, quindi non significa essere persone solo ricche. Certo. Bartoli, io tra un po' devo andare a chiudere questa parte della trasmissione, ma per chi fosse incuriosito ascoltandoci oggi dalla vostra attività, ricordiamo che c'è un sito sul quale mettete a disposizione tutte le informazioni che è necessario avere per poter naturalmente immaginare di poter fare un giorno un testamento in cui vi si lasci a voi, Lega del Filo d'Oro, come a tutte le altre associazioni che aderiscono al comitato, appunto, quello che si vuole. Sì, il sito è www.testamentosolidale.org, dove ci sono tutte le informazioni, c'è una guida proprio pratica e ci sono tutti i riferimenti per ricevere le necessarie informazioni. Certo. Il lascito solidale va a beneficio delle persone, della collettività, quindi è un qualcosa che promuove la crescita sociale di tutti noi. Senta, un'operazione che nel corso della sua esperienza ha trovato particolarmente significativa per spirito, non tanto per l'ammontare della donazione, ma insomma immagino che siano tutti eventi che vi colpiscono molto quando arrivano questi gesti di solidarietà. Nella sua storia ce n'è una in particolare che ricorda quella, con particolare emozione. Quella che mi ha colpito particolarmente è una storia che ho vissuto, perché si era creata un'amicizia profonda anche con la persona che poi ha destinato alla nostra organizzazione un importante patrimonio, perché ci si è accorti che fare il lascito solidale rappresenta continuare a vivere anche quando non ci siamo più, continuare a fare del bene anche quando non ci siamo più. È un'idea molto bella che è veramente importante per tante persone, e non necessariamente per la persona che rimane sola, ma in generale per le persone. Credo che tutti noi abbiamo questa esigenza profonda e l'ascito solidale è una opportunità che ci può aiutare in questa direzione. Invito i nostri ascoltatori a scriverci a cuoredenari@radio24.it per tutti gli aspetti che non abbiamo spiegato. I nostri amici notai sono a nostra disposizione per rispondere in privato. Ringrazio il notaio Gianluca Abate, buona giornata e buon lavoro, notaio. Grazie. Grazie anche a Rossano Bartoli, portavoce del Comitato Testamento Solidale. Ne approfitto per chiedergli se mi saluta tanto Osimo, che è il paese del mio papà. Bartoli. grazie, buongiorno. Buona a presto giornata. E buona giornata. Io direi che adesso ho l'impegno con la borsa, dopodiché ti lascio il microfono. E grazie. Poi parliamo di longevità. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. A incontrarti fra 100 anni, tu pensa al mondo fra 100 anni. La Barbagia di Sardegna in Italia, le isole tropicali di Okinawa in Giappone, Loma Linda in California, la piccola isola di Caria in Grecia, la penisola di Nicoya in Costa Rica sono le 5 zone blu zone a cui si fa riferimento, che vengono citate quando si parla di longevità e quindi di centenari. Dove ci trasferiamo io e te? Io vado in California, te lo dico. Io, guarda, penso che resterò in Italia e me la passerò tra la Sardegna, la Barbagia e il Cilento, perché sembra un'area in cui si vive a lungo e bene. Caratteristica, tra l'altro, pensa Deborah, che ha spinto naturalmente i ricercatori, in questo caso dell'Università La Sapienza di Roma, a vederci un pochino più chiare. Sì. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il professor Salvatore Di Somma, professore di medicina interna alla Sapienza di Roma, che coordina un progetto molto interessante di cui oggi vogliamo parlare. Buongiorno professore, benvenuto buongiorno, a Cuore di Nari. Grazie, buongiorno a voi. Professore, allora, in Cilento si vive bene e a lungo, non è un segreto, tanto che anche l'inventore della dieta mediterranea si trasferì qui con la moglie, a Pioppi sì. per la precisione. Per questa sì. ragione questo borgo è considerato un po' la patria della dieta mediterranea. Lì vicino si trova Acciaroli, un altro paese ad alta densità di centenari. Gli ultra ottantenni sono il 10% della popolazione. A Expo, tra l'altro, Deborah, ti ricordi, è andata sì, proprio sì. una delegazione di Arzilli Vecchietti, riscuotendo naturalmente un successo enorme, perché sono straordinari. Professore, lei che li conosce, perché li studia, ci vuole raccontare chi sono? Beh sì, in effetti avete detto bene, Arzilli attivi e sicuramente tutto sembra tranne che centenari. Io ne conosco molti ormai anche più da 40 anni, perché da tanti anni che vado lì, poi non c'ero andato perché ero andato negli Stati Uniti e poi li ho rincontrati dopo appunto 30 anni e ho visto che sono effettivamente persone che non solo hanno una vita lunga mediamente, ma soprattutto come dicevate stanno molto bene, e questo è quello che ci ha un po' spinto a cercare di capire il segreto, perché noi vediamo nelle grandi città persone di 85-90 anni purtroppo con grandi patologie neurodegenerative, scompensi di cuore, invece queste persone sembrano dei sessantenni da un punto di vista biologico, e questo ci ha spinti a studiare. Il nostro studio, che diciamo si è appena concluso, lo studio cosiddetto pilota, perché noi ricercatori in genere, prima di affrontare alcune problematiche nello specifico, cerchiamo di selezionare gli obiettivi dello studio. Uno studio pilota che si è concluso ad agosto di quest'anno e che ha visto, oltre appunto alla Sapienza, coinvolta anche l'Università di San Diego, con la quale collaboriamo da anni, il Great Network, che è un network di ricerca, e anche un centro di ricerca in Germania, ci ha fatto capire che cosa. Noi abbiamo studiato tra questi centenari 28 persone e 50 persone che vivevano in casa con loro, quindi che avevano le stesse abitudini, e queste persone che sono state oggetto dello studio sono state raggiunte a casa. Vorrei subito cogliere l'occasione per dire in tutto il Cilento non è solo Acciaroli o Pioppi, che sicuramente, come ha detto lei, è la patria della dieta mediterranea, ma è una vasta area che comprende circa 50-60 mila persone, e la caratteristica del nostro studio è che siamo andati a cercarli in paesini anche molto sperduti all'interno, verso la Basilicata o piuttosto che verso il sud, verso Palinuro, verso Camerota. E queste persone le abbiamo sottoposte a una serie di valutazioni che non avevo mai fatto, cardiologiche complete. Siamo arrivati con delle jeep a casa di queste persone, ovviamente. È stato anche un po' avventuroso, professore. Quindi si è tenuto in forma anche lei, tutta l'equipe si tiene in forma ad arrampicarsi in tutti questi borghi. Questa è una giusta considerazione. In effetti era l'unico modo, perché poi ci sono dei requisiti. Il medico di base, il medico di famiglia, ci ha aperto la porta, ovviamente, perché giustamente avevamo bisogno di qualcuno che ci introducesse, e siamo andati lì in sequenza. Prima è andata una squadra fatta da quattro dei miei ricercatori a fare la valutazione cardiologica con strumentazioni complesse, ecocardiogramma, elettrocardiogramma, che comincio a dire molti loro avevano mai fatto. Poi è andata una squadra a fare la valutazione nutrizionale, hanno visto cosa mangiavano, hanno cucinato con loro, hanno visto dove prendevano gli ingredienti. Poi è stata fatta la valutazione psicologica e neurologica, perché indubbiamente una delle caratteristiche principali di queste persone è che stanno molto bene neurologicamente. E poi un'altra squadra ha raccolto i campioni di sangue per valutare se ci fosse qualche particolarità nei test di laboratorio. Beh, innanzitutto i risultati dimostrano che queste persone sono mediamente basse e piuttosto magre, questa è la prima caratteristica. E già mi piace perché io sono bassetta e magretta. Eccola là. Ecco, questa, ecco qua. Brava. Questa, io ho tanta devi venire buona... a mangiare da me allora. Volentieri. E poi la maggior parte sono donne, e anche questo diciamo un po' si sapeva come percentuale. Certo. La cosa interessante è che hanno, ecco, questo rispetto al gruppo giapponese di Okinawa, una vista perfetta. Ecco. Queste persone non hanno cataratta quasi per niente e non usano occhiali. Questa è una cosa interessante. Loro hanno anche una capacità di attività fisica impressionante. Ognuno di loro, nonostante l'età, che la nostra media è stata 94 anni, ma c'è anche qualcuno di 101-102 che esce la mattina e puntualmente zappa il suo orto dove coltiva le cose che mangia. Quindi in effetti loro non vanno al supermercato a fare la spesa, ma mangiano quello che coltivano. E probabilmente quindi non è solo una questione di vita mediterranea, ma anche di sostanze prodotte. Certo. Ecco, l'olio d'oliva lo fanno in casa loro, non lo comprano certo al supermercato. Ecco, ti vuoi ancora trasferire in California o vieni insieme a me al professor di Somma in Cilento? Devo avere delle informazioni più approfondite sulla comunità dei longevi californiani, dopodiché deciderò. Va bene. Non è che può fare un giro, professore, no? Anche in California. In California, come sai, noi ci andiamo spesso come gruppo perché abbiamo una collaborazione e alla fine sicuramente faremo un confronto, perché è chiaro che questo studio ci porterà un po' a confrontarli, questi gruppi giapponesi, californiani, della Sardegna stessa. Diciamo, sarà anche bello mettere un po' insieme i risultati di vari studi, no? Per cercare di confrontare, per cercare di arrivare a delle conclusioni più possibile univoche, perché ripeto, noi siamo comunque anche uno studio pilota, uno studio preliminare, certo, su una popolazione ancora piccola. L'obiettivo invece è quello di ripartire subito con uno studio in tutto il Cilento, quindi questo ovviamente è l'obiettivo. L'altra cosa caratteristica che ci ha impressionato bene è che appunto queste persone non hanno Alzheimer, non hanno malattie neurodegenerative. Questa è una cosa che ci ha straordinaria. Straordinaria, loro sono veramente capaci di avere una lucidità nei discorsi sicuramente paragonabile, se non migliore, dei sessantenni che vivono con loro, e l'abbiamo anche confrontato con un gruppo di studiosi di risultati di Melbourne in Svezia, con i quali collaboriamo, che hanno fatto forum epidemiologia sullo stato mentale dei sessantenni in Svezia, e queste persone hanno la stessa lucidità, quindi questo è anche molto molto importante. Questo viene confermato anche dai campioni di sangue, perché una proteina che si sa essere legata all'Alzheimer, l'APOE4, sì, in queste persone è totalmente assente, quindi non solo non hanno l'Alzheimer, sembra che non lo svilupperanno nemmeno, quindi questa è sicuramente una caratteristica. Poi, come ho detto prima, sono molto molto attivi. L'altra cosa che da punto di laboratorio ci ha interessato è che hanno una quantità di albumina nel sangue circolante, una funzione epatica perfetta, sicuramente superiore alla media e superiore a quell'età. Si sa che anche negli studi fatti in Giappone e in altri, diciamo, sui centenari, l'albumina è legata alla longevità, quindi questo è un altro criterio importante che ti sembra importante. Quando siamo andati poi a valutare l'aspetto cardiovascolare, queste indagini strumentali complesse, ci siamo resi conto che queste persone, rispetto ai loro conviventi e rispetto a persone di 60 anni nel gruppo di Melmo, hanno meno incidenza, per esempio, di insufficienza cardiaca, nonostante abbiano i fattori di rischio, cioè hanno l'ipertensione, hanno il diabete, hanno il colesterolo alto, però non sviluppano scompenso cardiaco acuto. E questa è una cosa molto interessante e che noi pensiamo possa essere legata alla presenza in circolo di una quantità bassa di questa bioadrenomedullina, che è un marcatore nel sangue che sembra proprio essere implicato nella durata della vita. Esattamente, o perlomeno questa è una, diciamo, forse quella che è stata, rispetto ai dati dei biomarcatori, noi ne abbiamo testati tanti, come potete immaginare, questo è quello che ci ha dato un po' più interesse. Sì. Il nostro studio, il nostro gruppo, già da anni, anche con San Diego e con altri gruppi in Germania, ha dimostrato che questo biomarcatore è legato, se si innalza, alla severità delle malattie. Ecco, per fare un esempio, loro ce l'hanno hanno basso, questo marcatore è basso, e quindi può funzionare un po' come un fattore protettivo, il livello basso. Sì, perché questa sostanza, quando è alta, per esempio, anche noi l'abbiamo studiato e pubblicato già in vari studi, quando è alta in patologie acute come lo scompenso o l'infarto, si associa a una mortalità elevata. Per fare un esempio, se due persone hanno un infarto che sembra uguale, si chi ha la biadrenomegalia mediolica più alta ha una possibilità purtroppo di morire più alta. Mentre invece, e questo sembra legato a una disfunzione dell'endotelio, del microcircolo, che come sappiamo quando un organo, sia esso il cuore o il rene, certo, il fegato o il cervello, viene a essere, tra virgolette, insultato, ha bisogno di riattivare il microcircolo. Beh, loro ce l'hanno molto basso, quindi questo potrebbe essere la spiegazione per cui questa, sono protetti da questo. Questo ormone basso sembra funzionare come un fattore di protezione nei soggetti che, in cui è stato testato, assicurando al tempo stesso anche un buon microcircolo. Praticamente sì, questa è l'ipotesi che noi ovviamente andremo a testare in maniera molto più specifica, scientificamente molto, certo, più dettagliata, perché ovviamente questo ha aperto ma noi siamo qua ad aspettare le vostre, i risultati delle vostre ricerche, professore, mi raccomando. Siamo nelle sue mani, ma adesso voglio fare, noi tra poco parleremo, dato che questa bioadrenomedulina è in qualche modo legata alla microcircolazione, noi ci vogliamo occupare proprio di circolazione, di tutte quelle segnali, quei sintomi che attribuiamo giustamente o ingiustamente a un problema circolatorio. Ve ne faccio qualche esempio: le mani fredde, quante volte abbiamo detto è un problema di circolazione, il cuore caldo, ne parleremo tra poco, oppure quella sensazione di spilli, di formicolio, sarà colpa della circolazione o che altro, oppure quel senso di mano un po' addormentata, quando, come se tu non ti sentissi bene. Ne parliamo con la dottoressa Maddalena Lettino, sì, che è tornata a trovarci, responsabile dell'unità operativa di cardiologia presso l'Istituto Clinico Humanitas di Milano, che so che il professor Di Somma vuole salutare, quindi facciamo questa carambata. Potete salutarvi in diretta. Ci siamo appena visti per ragioni scientifiche, è sempre un piacere risentirsi. Non sono andati a Loma Linda però. No. E ho scoperto perché. Gli auguri e i complimenti alla professoressa Lettino, perché è stata appena nominata presidente della Società Europea delle Patologie Cardiovascolari Acute, quindi è anche un'occasione ghiotta per tutti quanti noi. Auguri e complimenti, Maddalena. Lo facciamo noi l'applauso che non arriva dalla regia. Non arriva, brava! E soprattutto è bello che il professor Di Somma l'abbia ricordato. Questa... Ottimo. Allora, noi adesso ci fermiamo dopo tutti questi convenevoli. Intanto, mani, piedi freddi, fermicolio, spilletti e quant'altro. Restate con noi, informazioni sul traffico, e la dottoressa Lettino ci dirà che cosa dobbiamo fare, quali problemi potrebbero nasconderci, oppure dobbiamo assolutamente stare tranquilli. A tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Cuore e denari. Avete anche voi la sensazione di avere una manina gelida, oppure avete i piedi sempre freddi? Adesso che le temperature si stanno abbassando si ripresenta un po' questo problema, che a dirla tutta è particolarmente presente e sentito da noi ragazze. Deborah, di solito e ragazzine, ecco, ci avviciniamo al nostro partner che utilizziamo come scaldino, oppure ci facciamo la classica bolla della bulla dell'acqua calda. Ma se questa sensazione non passa e ritorna, magari con una certa frequenza, che fare, soprattutto a che cosa pensare? Come vi abbiamo anticipato, in linea con noi abbiamo la dottoressa Maddalena Lettino, responsabile dell'unità operativa di cardiologia presso l'Istituto Clinico Humanitas. Dottoressa, mani fredde, cuore caldo, si dice così. Ma cosa dice questo proverbio a un cardiologo che di cuore se ne intende? Allora, questo proverbio dice che le mani fredde, quando ci sono in concomitanza con le emozioni, sono normali, perché il cuore è particolarmente emozionato ed è una reazione fisiologica, e queste sono le mani fredde delle giovani ragazze, per esempio. Dobbiamo pensare ai problemi circolatori quando vengono fuori al di fuori dell'emozione, ahimè, quindi quando si manifestano per esempio con l'esposizione alle basse temperature, ci potrebbe essere un problema di regolazione della circolazione, lì dobbiamo andare da un medico e dobbiamo capire che cosa sta succedendo. Oppure se siamo delle persone un po' più anziane, abbiamo delle malattie vascolari in generale o abbiamo un diabete, allora dobbiamo essere certi che non ci siano degli ostacoli alla circolazione. E infine, se posso sintetizzare, ci sono molte altre cause diciamo relativamente benigne per quanto riguarda la circolazione, perché avvertiamo sintomi che in realtà non dipendono poi dalla circolazione vera e propria, ma magari dai nervi che vanno a finire anche nelle parti più remote del nostro corpo. Infatti, dottoressa, ci sono altri segnali che ci fanno pensare alla circolazione, come ad esempio il formicolio, la sensazione di addormentamento, la perdita di sensibilità. Il collegamento è corretto? Direi che è proprio corretto, soprattutto in quel caso che ho citato prima, per esempio di paziente diabetico che abbia sia una malattia vascolare che una malattia dei nervi periferici che rovina, se possiamo dire, entrambi. Allora avrà tutti questi sintomi, ha una circolazione non tanto facile, arriva poco sangue nelle parti più lontane del corpo, è anche rovinata la sensibilità, e la concomitanza di poco sangue e di sensibilità sono tutte le cose che lei ha citato. Dottoressa, gli ultimi minuti di trasmissione li dedichiamo ai consigli. Dopo averci aiutato a individuare i segnali che possono tradire magari problemi di circolazione, deve aiutarci a fare un passo avanti, cioè capire che cosa protegge, in qualche modo ostacola una buona circolazione del sangue. Il sistema circolatorio lo possiamo immaginare come una rete stradale. Ci sono le strade, le autostrade, le superstrade, le strade di campagna, i viottoli. Per garantire una buona circolazione, tra l'altro poi il pavimento stradale deve essere buono, deve essere in buono stato, ma anche il traffico deve essere regolare senza intoppi. Ci dà 3 consigli perché tutto questo possa andare bene? Allora, prima di tutto preveniamo le malattie cardiovascolari che potrebbero compromettere il traffico, quindi stiamo attenti allo stile di vita, controlliamo la nostra pressione, controlliamo anche la nostra glicemia e il nostro colesterolo, perché non ci piace che queste strade si incrostino, diventino più strette, finiscano inevitabilmente per intopparsi. Poi cerchiamo di indossare degli indumenti che non costringano la circolazione, perché anche questo potrebbe essere sfavorevole, magari miglioriamo la circolazione delle vene in questo modo e favoriamo il sangue che ritorna su. E tutte le volte che vediamo dei segni strani, notiamo gonfiori, ci accorgiamo che i sintomi, nonostante tutte queste misure si ripresentano, consultiamo il medico prima che diventino troppo avanzati. Dottoressa Lettino, noi la ringraziamo molto per essere stata con noi. Grazie. Faremo, come si dice, tesoro dei suoi consigli. Intanto io ho le mani gelate, ma se una mano è gelata, una mano è fredda e l'altra calda, così rispondiamo a un ascoltatore. Certo, in quel caso potrebbe esserci qualcosa di circolatorio, magari il lato dove è più freddo, dove non arriva bene il sangue. Andiamo dal dottore, è probabile che ci faccia fare un Doppler, ecco, facciamolo un ecodoppler, vediamo se non ci sono ostacoli maggiori sulla circolazione. Dottoressa, un'altra domanda riguarda quei prodotti, quegli integratori che rafforzano le pareti delle circolazioni, che fanno bene? Io direi che sicuramente non fanno male, mettiamola così, ma un'alimentazione corretta, l'attività fisica, il controllo del colesterolo fanno sicuramente meglio. Amedeo da Milano, sì, ci scrive: i piedi freddi mi vengono quando gioca l'Inter, grazie della vostra positività. Ecco, anche quello aiuta, un sorriso aiuta. Deborah, avevo una domanda che apre un grande capitolo, esatto, ma ne torniamo a parlare, ma diamo questo messaggio, perché a Deborah sta particolarmente a cuore. Il tema del fumo, dottoressa Lettino. Certo. Per chi ha problemi di circolazione è allora, anche abbastanza rilevante. Io devo dire che il fumo andrebbe abolito in ogni caso. Esiste una malattia della circolazione, che è un'arteriopatia periferica nella quale i vasi vanno via via stringendosi, che è proprio legata al fumo di sigaretta e che viene, noi diciamo, esacerbata, accentuata dal fumo di sigaretta. Il fumo non fa mai bene ai vasi sanguigni, è come qualche cosa che ne altera completamente la struttura e la funzione, quindi sicuramente il fumo va abolito, è una ragione in più per farlo, e se ci sono disturbi circolatori vuol dire che i danni sono andati molto avanti. Grazie dottoressa Lettino, noi ci sentiamo, speriamo di sentirci presto, di averla qua in studio, torniamo domani, sempre alle 10:30 con voi. Buona giornata.